in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Già le notizie che ascoltavate da Adriana Fracchia nel corso del GR sono pure in evidenza, specialmente mi riferisco alle vicende degli scontri negli Stati Uniti, ai disordini seguiti appunto a queste tensioni di tipo razziale. Così ad esempio il titolo principale del Messaggero questa mattina: razzismo in USA, nuove violenze, dopo la strage di Dallas non si placa. Proteste e scontri fra polizia e afroamericani, decine di arresti. Il discorso di Obama occupa naturalmente molti dei richiami, nonché delle pagine interne nei giornali di questa mattina. America unita, ma c'è pregiudizio, dice, per neri e latini. E poi Houston, uomo di colore ucciso da agenti, lo ascoltavate anche in precedenza. Così anche per lo stesso tema, cioè per le tensioni negli Stati Uniti, il titolo principale di Avvenire, che segnala gli USA sotto shock, dopo la strage di Dallas si diffondono le manifestazioni di afroamericani, nuove aggressioni ad agenti. E poi un caso, il robot bomba, quello che è stato usato per disinnescare il per fermare il cecchino che stava appunto sparando sui poliziotti bianchi, è un caso perché sarebbe illegale il suo utilizzo, così almeno le contestazioni da parte di chi appunto ne ha segnalato l'uso. La vicenda delle tensioni negli Stati Uniti occupa naturalmente anche altre prime pagine, ad esempio il Corriere della Sera, scontri e cortei, America ferita, un'altra vittima della polizia a Houston, e poi appunto le tensioni ancora con l'assegnazione di Obama che dice non siamo divisi. Così allo stesso modo la Repubblica: Houston, la polizia uccide un afroamericano, Obama, gli USA non sono divisi ma c'è troppa violenza. Vi ho dato conto di queste aperture, di questi titoli in evidenza nelle prime pagine dei giornali, che però qua e là danno anche spazio invece ad altre questioni. Ad esempio, proprio Repubblica segnala l'intenzione del governo di intervenire rapidamente per dare attuazione alla legge cosiddetta Cirinnà, dal nome della sua relatrice, cioè la legge che ha introdotto in Italia dal giugno scorso le unioni civili e i contratti di convivenza, unioni appunto tra coppie omosessuali. Unioni civili, tempi brevi per il decreto, perché questo titolo? Perché la legge è sì in vigore, ma ai comuni mancano delle indicazioni operative su come gestire appunto questa nuova parte del diritto di famiglia che è in vigore da poche settimane. Allora il decreto di attuazione è stato annunciato in tempi brevi. Leggo da Repubblica già dalla prima pagina: potrebbe essere l'estate delle unioni civili, quella in cui per la prima volta dalle sale municipali dei comuni usciranno abbracciate coppie di donne e coppie di uomini. I tempi sembrano finalmente certi, come ha promesso il Premier Renzi annunciando un iter veloce del decreto attuativo sulle unioni civili, ossia il decreto ponte emanato dal ministro Alfano, che darà ai sindaci quelle istruzioni per l'uso che servono per le celebrazioni delle unioni omosessuali. Dopo il passaggio al Consiglio di Stato tutto passerà nelle mani dei sindaci. Già per la prima metà di agosto, se non ci saranno intoppi, le prenotazioni, riferisce Repubblica dalla prima pagina su questo tema, sono centinaia. Così anche un altro tema, diciamo non legato alla più stretta cronaca, alla più stretta attualità, è quello che viene evidenziato nel Corriere della Sera, addirittura nella parte alta della sua prima pagina, cioè al di sopra di quello che è sicuramente il suo titolo principale, dedicato, come vi dicevo, agli scontri negli Stati Uniti. Il tema è una inchiesta a firma di Dario Di Vico, Né studio né lavoro, ecco come vivono, ed è dedicata ai NEET o NEET, come preferite, oppure né se vogliamo dirla all'italiana, cioè i giovani che, stando alle statistiche, non lavorano e non studiano. Ma cosa fanno in realtà? Dario Di Vico prende le mosse da una ricerca che è stata condotta nel 2015 da una Onlus che si chiama WeWorld, che è impegnata appunto su questi temi, e racconta in due pagine all'interno del Corriere della Sera che cosa fanno in realtà. Cioè è molto semplice liquidarli con un non fanno niente perché non studiano e non lavorano. In realtà hanno dei lavori che o non entrano nel circuito normale di rilevazione, e neanche in quello fiscale verrebbe da dire, perché magari si occupano di dare ripetizioni o di attività di babysitting, e quindi non necessariamente e non sempre queste attività vengono dichiarate o denunciate al fisco. Dall'altra parte magari hanno dei corsi di formazione che ugualmente possono, dei percorsi di formazione che ugualmente possono non essere riconosciuti, ad esempio possono essere impegnati nel volontariato o in attività che non necessariamente sfociano poi in una certificazione vera e propria. Questa è l'inchiesta che vi segnalo. Noi ora ci fermiamo per qualche istante e ascoltiamo il traffico. In primo piano. E bentornati, ancora una buona domenica da Mauro Meazza, grazie a Paolo Corleoni questa mattina in regia. Vi do conto dei titoli più importanti e di alcuni approfondimenti interessanti che trovate sui quotidiani in edicola questa mattina. Vi ho segnalato molte delle aperture dedicate alle vicende statunitensi, con queste tensioni, questi scontri a sfondo razziale. Apro questa seconda parte invece alla rassegna stampa parlando di banche. Capisco che l'argomento magari la domenica mattina non è proprio dei più graditi, però si sta trattando, per, come sapete, da giorni con l'Unione Europea, con le istituzioni europee, proprio per capire come superare il problema dei crediti deteriorati, o in sigla NPL dal termine inglese che viene utilizzato. E allora, il secolo XIX, come primo titolo della giornata, banche in sofferenza, la mappa del rischio. Il 40% dei crediti deteriorati sulle spalle di 12 gruppi. Per continuità editoriale, anche La Stampa presenta questa stessa inchiesta. All'interno appunto dei due giornali trovate gli approfondimenti. Prendiamo allora dalla stampa, ma ripeto, c'è una continuità tra i due quotidiani. La mappa dei crediti deteriorati, che trovate a pagina degli istituti con i crediti deteriorati, si riferisce alla stampa Montepaschi Siena, Veneto Banca, Carige, Cassa Risparmio di Genova e Creval, gli istituti schiacciati dalle sofferenze. Alla pagina 2, sempre dalla stampa, Renzi: aiuti alle banche, abbiamo il sostegno dell'Unione Europea. Il Premier dice: avanti con i negoziati. Ma allora, su questo tema delle sofferenze, le sofferenze appunto, lo riepilogo, sono questi crediti che sono stati concessi dalle banche ma che in questo momento si è in difficoltà a riprendere, anche per oggettive ragioni di difficoltà del debitore, che possono essere di solito dovute alla crisi, a questi anni che hanno messo in difficoltà le prospettive di rientro. Il Sole 24 Ore dedica questa mattina il suo titolo principale proprio a questo accordo sulle banche, entrando già con qualche dettaglio maggiore. Ricapitalizzazioni e bail-in, stretta finale sull'accordo. Allora, qui forse merita qualche secondo di approfondimento per fare fronte alle difficoltà di questi crediti deteriorati, che mettono chiaramente un tassello pericoloso nei bilanci delle banche. Serve che cosa? Denaro, quindi ricapitalizzare. E il bail-in è questa regola europea del cosiddetto salvataggio interno, questo significa bail-in, e regola che serve appunto a non gravare sui conti pubblici, ma poiché è difficile che le banche riescano a ricapitalizzare miliardi e miliardi per far fronte a questi crediti deteriorati, si discute con l'Unione Europea se è possibile un intervento pubblico diretto o mediato. Il Sole 24 Ore riferisce in questo senso: verso la stretta finale, le trattative su Roma e Bruxelles sul futuro del sistema bancario italiano. L'Eurogruppo di domani e l'Ecofin di martedì, si fa riferimento ai vertici che coinvolgono i ministri e i responsabili dei governi dell'area euro, cioè dei paesi dove l'euro è moneta è la valuta corrente, potrebbero essere i passaggi decisivi. Lo scoglio a questo punto è costituito dagli aiuti di Stato. Si tratta di una condivisione soft dei rischi con la ricapitalizzazione preventiva e una sospensione del bail-in, cioè non ci sarebbe un'applicazione come quella che abbiamo visto per le quattro banche che sono state risolte, così il termine tecnico, ma se preferite fallite nella fine del 2015, nelle ultime settimane del 2015, ma invece una cosiddetta applicazione più morbida che non andrebbe a gravare se non sugli investitori di tipo istituzionale. Renzi professa ottimismo da Varsavia, c'è il pieno supporto degli altri partner europei, ne ho parlato anche con Juncker. Non c'è un problema italiano, dice il Premier, c'è qualche singola situazione aperta. Allora restiamo su questo tema con le pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore. Oggi trovate anche una stima, una valutazione di quanti possono essere questi crediti che vanno in qualche modo smaltiti, cioè devono uscire dai bilanci bancari ed essere immessi sul mercato. Banche pronte a cedere 51 miliardi di crediti deteriorati di NPL, così il titolo della pagina accurata questa mattina da Marco Ferrando, dove c'è anche una stima dei vari istituti e delle quote di crediti deteriorati che sono in vendita. Invece a pagina 3 Beda Romano da Bruxelles appunto dettaglia ancora meglio di quanto vi dicevo prima la ipotesi di accordo che potrebbe arrivare già in questi giorni proprio sulla vicenda dell'utilizzo mediato o diretto della parte pubblica, della mano pubblica nei confronti delle banche in difficoltà. Burden sharing alleggerito, trattativa finale, scrive Beda Romano, le lunghe e complesse trattative sul futuro del sistema bancario italiano appaiono vicine a una stretta finale, fosse solo per l'urgenza di trovare un'intesa in un contesto finanziario molto delicato. Proprio domani e dopodomani si terrà una 2 giorni di riunioni dei ministri delle finanze, sarà l'occasione per il governo italiano e la Commissione europea di toccare con mano la posizione dei partner e valutare in diretta i margini negoziali di ciascuno. Bruxelles, scrive ancora Beda Romano, è stretta tra il desiderio di rispettare le regole UE e la consapevolezza che la vicenda bancaria italiana è seria e potenzialmente dannosa per il resto della zona euro. Se Bruxelles appare però più cauta di Roma è anche perché la trattativa è sfaccettata, cioè si sta lavorando molto sui dettagli, consapevoli che uno shock da parte del sistema bancario italiano sarebbe poi comunque pernicioso per quanto riguarda tutta l'area dei paesi dell'euro, e in questo momento poi con le difficoltà già di tipo politico che ci sono per il post Brexit, cioè il voto con cui la Gran Bretagna ha deciso l'uscita dall'Europa, un'uscita di cui peraltro scrivono anche oggi i giornali, che è ancora tutta da decifrare, ma insomma introdurre questo ulteriore elemento di incertezza certo non è la cosa migliore da fare in questa fase. Vi dicevo di Brexit perché restiamo sul Sole 24 Ore. Come sapete in questi giorni abbiamo segnalato sul nostro quotidiano queste difficoltà delle società immobiliari, perché c'è meno interesse ovviamente per acquistare immobili commerciali o anche di abitazioni, ma più che altro parliamo del commerciale, nella zona di Londra, perché se non sarà più Unione Europea, ebbene una serie di vantaggi, non ultimo quelli fiscali ma anche burocratici, potrebbero venire meno, e quindi c'è stata una fase di difficoltà pressoché immediata, seguita a pochi giorni dal voto a favore della Brexit, cioè dell'uscita, che ha coinvolto proprio i fondi immobiliari. Ne riferiamo anche oggi, facciamo il punto anche oggi, lo fa Leonardo Maisano da Londra, ma la cosa forse più interessante di questa corrispondenza è quella che trovate sempre a pagina 5 e che riguarda questa diatriba tutta particolare su chi poi delle autorità britanniche deve effettivamente presentare la richiesta di uscita dall'Unione Europea. Per fare un velocissimo riassunto, in base all'articolo 50, oramai noto nel trattato che regola l'Unione, serve che lo Stato che se ne vuole andare presenti una sorta di domanda ufficiale per andarsene. Bene, questa domanda non è stata ancora presentata perché il leader che si è dimesso ha detto: io non lo faccio perché mi ero schierato con il Brexit, cioè per rimanere. Non si sa bene se deve farlo, se bisognerà aspettare una nuova, un nuovo premier, o addirittura, come scriviamo oggi sul Sole 24 Ore, l'idea che si debba comunque passare dal Parlamento inglese, quindi i tempi andrebbero ad allungarsi ulteriormente. Insomma, questa uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea non sembra così immediata, o sembra comunque avere dei tempi abbastanza lunghi. Se volessimo usare un paragone calcistico ideale in queste giornate di europei, diciamo che sembra un po' che stiano facendo melina. Il punto centrale, scriviamo oggi su Sole 24 Ore, è stabilire chi ha il potere di attivare questo articolo. Secondo uno studio legale tocca al Parlamento, perché il Regno Unito è democrazia parlamentare, il referendum su Brexit aveva solo valore consultivo, quindi se il governo presentasse la domanda di uscita dall'Unione Europea, finirebbe per violare lo European Communities Act, che sancisce e regola proprio la partecipazione della Gran Bretagna all'Unione Europea. Questo sul Sole 24 Ore di oggi. Di banche, come vi dicevo, si parla anche su altri giornali, altri che appunto intervengono sulla materia delle sofferenze, e c'è un editoriale affidato a Romano Prodi sul Messaggero che interviene in una maniera un po' diversa, per quello ve ne do conto. Una proposta, scrive Romano Prodi sul Messaggero, per aiutare banche e famiglie. Qual è questa proposta? Detto molto semplicemente, per aiutare almeno quella parte di crediti deteriorati che riguarda i mutui immobiliari sottoscritti dalle famiglie per avere per l'acquisto della casa, dice, scrive Prodi sul Messaggero, dice: si può calcolare che ci siano 250.000 famiglie a rischio di vedere la propria abitazione pignorata da parte della banca creditrice oppure da una delle società che sono specializzate nell'acquistare crediti in sofferenza, e quindi tutti coloro che poi non fossero in grado di far fronte a questo debito del mutuo, che è appunto il prestito concesso per acquistare casa, avrebbero la propria casa venduta all'asta. Qual è la proposta? Scrive Prodi: la quasi totalità di queste pur modeste famiglie, modeste dal punto di vista delle disponibilità economiche, anche se non in grado di pagare i residui dei mutui, potrebbe tuttavia sostenere il peso di un canone d'affitto molto contenuto. Lui ipotizza intorno ai 2.000 euro all'anno, non al mese. Queste famiglie sarebbero perciò in grado di pagare questo modesto affitto per la casa in cui abitano, mentre non sarebbero in grado di affrontare il pagamento della quota capitale, cioè di tutto il resto del mutuo. Allora Prodi immagina un possibile fondo di mano pubblica che acquisirebbe la proprietà degli immobili, evitando le procedure di pignoramento e offrendo alle famiglie un contratto d'affitto di lungo termine a un canone molto basso, e poi l'eventuale possibilità di riscatto se la situazione migliora, cioè se magari la situazione economica della famiglia andasse migliorando negli anni. Se correttamente gestito, secondo Prodi, questo fondo potrebbe avere una remunerazione di investimento intorno al 5%, quindi decisamente interessante e senza particolari rischi. Questa la proposta articolata da Romano Prodi nell'articolo che poi oggi è anche l'editoriale del Messaggero, del quotidiano romano di questa mattina. Vi ricordo che anche se domenica è possibile comunque contattarci, ad esempio via WhatsApp, 349-238-6666 è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi. E noi ora invece ci fermiamo per qualche istante, ascoltiamo le previsioni del tempo. Qui a Milano la giornata si annuncia splendidamente estiva. A tra poco. In primo piano. Bentornati, buona domenica da Mauro Meazza, buona domenica naturalmente anche a Paolo Corleoni questa mattina in regia. Stavamo parlando di banche, pur consapevoli, per carità, che il tema non è dei più adatti a una domenica mattina, ma mi scrive giustamente un ascoltatore su WhatsApp, il numero è il solito anche la domenica, 349-238-6666, dice: ma se io non ho mai speculato in borsa, in banca, non ho acquistato obbligazioni, perché dovrei come contribuente pagare in qualche modo modo il conto delle, delle difficoltà bancarie, ma la risposta sarebbe molto brutalmente per evitare guai peggiori. No, in realtà è proprio quello che sostiene il cosiddetto bail-in, cioè questa è la filosofia di fondo. Se una banca è mal gestita, in qualche modo ne paghino le conseguenze per primi i suoi azionisti e per ragioni poi connesse proprio al tipo di strumento, ad esempio gli sottoscrittori di obbligazioni, gli obbligazionisti di obbligazioni subordinate, cioè di alcune particolari obbligazioni di banche in realtà. Ma poi prometto, cambio argomento perché non vorrei davvero rovinarvi la domenica mattina. Parla anche il Giornale, il Giornale affronta con Marcello Zacchè la questione da un altro punto di vista. Le sofferenze bancarie e le difficoltà delle banche sono un po' di tutta Europa. Il motivo è molto semplice: non essendoci una fase di ripresa dell'economia, una fase buona dell'economia, si sono ridotti anche molto i margini di guadagno per le banche stesse e quindi emergono tutte le difficoltà. Per di più è arrivato anche questo shock appunto del voto britannico, che rappresenta poi il principale mercato finanziario, quindi ulteriori scossoni. Ma insomma, per farvela molto breve, Zacchè ci ricorda che se in Italia abbiamo il problema dei crediti deteriorati o NPL, come volete chiamarli, in Nord Europa hanno ad esempio un record dei derivati, cioè prodotti finanziari ad alto rischio che le banche del Nord Europa hanno in pancia, come si dice poco finemente, hanno in pancia per quote molto molto importanti. Infatti appunto l'ufficio studi della CGA dice, riferisce Zacchè, ha analizzato gli ultimi dati forniti dall'EBA, l'autorità bancaria europea, e da questi dati si evince che da marzo del 2016 le banche finlandesi, quelle del Regno Unito e quelle della Germania hanno in pancia più del 20% del loro attivo in derivati. In Italia questa quota è appena il 5,3%. Ora bisogna capire che l'utilizzo dei derivati è particolarmente rischioso, perché possono strumenti che possono anche generare degli importanti guadagni ma anche delle importanti perdite. Quindi in un certo senso non hanno niente da invidiare ai crediti deteriorati. È uno degli argomenti peraltro che il governo italiano sta utilizzando proprio per farsi ascoltare in Europa. E poi ancora sulle banche, il Fatto Quotidiano, dal bail-in ai risparmi. Il Fatto Quotidiano punta su una pagina direi di servizio, nelle due pagine centrali, dal bail-in ai risparmi in fumo, alle sofferenze, quello che serve sapere. Marco Maroni firma questo contributo, questo lungo contributo sulle due pagine del Fatto Quotidiano di oggi, e tra l'altro riepiloga anche dei numeri che sono circolati anche altre volte in questi mesi di polemiche sulle banche, difficoltà delle banche, quanto è costato agli stati aiutare le loro banche. Già, perché effettivamente fino all'entrata in vigore del bail-in, questi meccanismi appunto di salvataggio interno, gli stati hanno abbondantemente attinto, anche la Germania, soprattutto la Germania verrebbe da dire, con miliardi e miliardi di finanziamenti per le banche. La Germania meno 233 è l'impatto in miliardi di euro che viene ricordato dal Fatto Quotidiano in queste due pagine. L'Italia in realtà aveva questi, ricorderete, Monti Bond per il Monte Paschi per pochissimi miliardi. Qui riferiamo un impatto di più 2 miliardi già calcolato, riferisce il Fatto Quotidiano, già calcolato alla restituzione di queste obbligazioni particolari per il Monte Paschi di Siena. Oh, vi avevo promesso di cambiare argomento e quindi lo faccio. Vado sul Messaggero di questa mattina, che tra le altre cose, vi dicevo, l'apertura della prima pagina è dedicata al razzismo negli Stati Uniti, a centro pagina un sondaggio sulle nostre abitudini di voto. Unione Europea, tasse e sprechi, gli italiani votano i temi, non più i partiti, lo spiega il sondaggio SVG di Messaggero. Addio allo schema destra-sinistra. Devo dire, di questo addio allo schema destra-sinistra avevamo già avuto qualche sospetto con la mobilità del voto già nelle ultime consultazioni di qualsiasi tipo, insomma amministrative o nazionali che fossero. Ma dalla prima pagina del Messaggero c'è una notizia che vi voglio segnalare. Asili nido, più posti e maestre laureate. La riforma della scuola passa anche dagli asili nido, anzi inizia proprio da lì, per creare d'ora in poi un percorso unico che sia il più possibile coerente con programmi e necessità degli studenti. Adesso forse la parola studenti per gli asili nido rischia di essere un po' altisonante, però così proprio riferisce il quotidiano romano, anche quelli più piccoli. Il decreto legge, ecco, qui si parla di un decreto legge, ma io mi permetto di dire, forse è, essendo l'attuazione di quanto è contenuto nella riforma della scuola varata più o meno un anno fa, potrebbe trattarsi di un decreto legislativo, cioè dell'attuazione di un decreto che dà attuazione alle norme che abbiamo già in vigore dall'agosto dell'anno scorso. Il decreto definito bellissimo dal Premier Renzi potrebbe essere approvato già nel mese di luglio e andrà a rivoluzionare il concetto di nido e di strutture educative per l'infanzia, dove le maestre dovranno essere laureate, i programmi e le linee guida arriveranno direttamente dal Ministero dell'Istruzione. Dalle pagine interne poi del Messaggero vi segnalo appunto che tra gli obiettivi di questa riforma c'è proprio l'aumento, e questo penso farà molto piacere a tutte le persone che hanno necessità di ricorrere al nido, c'è l'aumento dei posti a disposizione delle famiglie, come ci viene chiesto dall'Europa. Quindi l'Europa non è che ci chieda poi solo di risanare le banche o ci chieda del denaro, in realtà ci chiede anche di dare più posti negli asili nido. Purtroppo, riferisce Lorena Lo Iacono nel suo articolo sul Messaggero, siamo abbastanza indietro, perché entro il 2020 c'è un obiettivo di un posto al nido per almeno 33 bambini ogni 100 nell'età compresa tra gli 0 e i 3 anni. Oggi si tratta di una meta ben lontana, visto che la nostra percentuale di copertura sta al 17,9%, quindi diciamo siamo al 18%, dobbiamo arrivare al 33%, abbiamo ampi margini di miglioramento, come si dice in questi casi. Secondo le stime dei sindacati CGIL e CISL e UIL sono 289.851 i bambini che frequentano il nido, su un totale di 1.620.000 bambini sotto i 3 anni. Insomma, ci sono 1.300.000 bambini che non hanno disponibilità o non frequentano l'asilo nido. Tutti i dettagli poi su questo decreto, su questo provvedimento che darà attuazione alla buona scuola, sono spiegati nell'articolo di Lorena Lo Iacono sul Messaggero. C'è la necessità anche dei fondi. Lo stanziamento ipotizzato da parte del governo sarebbe di oltre 1 miliardo, e ci sarà però anche la necessità di una contribuzione da parte delle famiglie. La contribuzione, scrive sempre il Messaggero sulla sua pagina interna, non dovrebbe superare il 20% della spesa che viene prevista. Allora, ultima interruzione, e anche questa volta torniamo ad informarci sul traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta In Primo Piano. E buona domenica ancora da Mauro Meazza, ultima parte di questa nostra rassegna stampa. Ci sono un po' di notizie che sono quasi esclusive o di cose che sono quasi esclusive di alcuni giornali. Allora volevo darvi conto di alcune di queste. Avvenire, ad esempio, si ricorda di un anniversario, e credo, se non ho visto male, che sia l'unico dei quotidiani oggi in edicola a farlo, perché il 10 luglio del 1976, parliamo di diversi anni fa, avveniva l'incidente di Seveso. In realtà l'incidente di Seveso, per chi tra i più giovani non lo sapesse o non se lo ricordasse, riguardava l'esplosione di un reattore in una fabbrica, l'ICMESA di Meda appunto, e questo comune brianzolo, Seveso, fu colpito da una nube tossica di diossina che si sprigionò dall'impianto. Questo incidente fu molto rilevante, naturalmente, per l'impatto sulla popolazione, le misure di emergenza che vennero tempestivamente prese per mettere in sicurezza e dare protezione sanitaria alla popolazione, e poi è anche stato all'origine di tutte le normative che sono derivate proprio sugli incidenti industriali rilevanti. Infatti la direttiva europea, ad esempio, che regolamenta ancora oggi, pur nei suoi tanti aggiornamenti, essendo passati 40 anni, gli incidenti industriali, la prevenzione degli incidenti industriali è nota appunto come direttiva Seveso. E Pierfrancesco Redaelli e Augusto Pessina ricordano questa vicenda Pierfranco Redaelli, scusate, e Augusto Pessina ricordano su Avvenire questa vicenda in due pagine interne. La diossina, un silenzio durato 9 giorni, Seveso, 40 anni dopo i veleni restano. Il cronista che svelò il caso Icmesa: quando arrivai alla fabbrica mi insultarono, c'era anche una difficoltà proprio nel gestire quella che oggi chiameremmo la comunicazione di questo stato di crisi. La nube, poi i dubbi, le mistificazioni, e poi a vincere l'impegno di parrocchie e volontari, e poi tutto l'impegno anche governativo, verrebbe da ricordare, delle ASL, delle unità sanitarie locali, che si misero a disposizione per le analisi e gli accertamenti sulla popolazione. Molti bambini, riferisce appunto a Pessina, colpiti dalla nube manifestarono delle lesioni cutanee acute, e alcuni le svilupparono anche a distanza di tempo. Seveso, questo anniversario 40 anni dopo dell'incidente all'Icmesa di Seveso, quelli come me che hanno più di un capello bianco se lo ricorderanno ancora. Per i più giovani, il consiglio di lettura su Avvenire di quest'oggi. Naturalmente tiene banco sui giornali ancora la vicenda di Fermo, cioè dell'omicidio, perché poi di fatto sarà poi da appurare con quale tipo di responsabilità, ma dell'omicidio avvenuto a danno di questo nero, di questo signore che passeggiava con la moglie ed è stato pesantemente insultato. La moglie è stata pesantemente insultata. Emmanuel è poi morto per il pugno ricevuto. Ci sarà adesso tutto un accertamento. Però vorrei parlarvene, perché tutti i giornali ritornano sulla vicenda con i tagli più vari. Sul Giorno, Quotidiano Nazionale ad esempio, c'è una intervista al sindaco di Fermo, Calcinaro, che dice: la mia città stritolata, siamo diventati un capro espiatorio, è stato un caso di razzismo, è vero, ma Fermo sta poi pagando per tutti. Dice: se si fosse rimasti sui fatti oggettivi non potevano crearsi strumentalizzazioni. Invece, nel momento in cui chi ha responsabilità politiche si mette a vedere com'è andata, chi ha picchiato per primo, eccetera, si finisce per fare strumentalizzazioni inutili. Ricostruire i fatti, dice il sindaco a Roberto Fiaccarini, spetta alla magistratura, altrimenti saremo sempre in perenne guerra tra due fazioni, specie se si parla di razzismo. Ecco, e qui un po' dispiace che poi questa cosa, specialmente in rete e come poi riferiscono i giornali, sia diventata una sorta di derby incomprensibile tra chi ammette che sia lecito insultare una persona di colore, anche rivolgendosi con l'epiteto di scimmia, e questo mi sembra sinceramente sconcertante, per non usare parole peggiori, e chi poi si mette a sindacare sul "ma non è vero, è stato lui che è stato picchiato per primo, non voleva uccidere", eccetera eccetera. Forse il ritratto poi migliore di questo signore che ha colpito con un pugno Emmanuel Cidi Namdi, che è appunto la persona che poi è morta, è quello che dà lo stesso sindaco in questa intervista sul Giorno. Dice: lei conosce Amedeo Mancini, è stato anche suo avvocato, gli chiede Roberto Fiaccarini, che tipo è davvero? È una persona che usa menare le mani, facilmente influenzabile dai contesti vicini. Però se mi avessero detto che poteva essere uno dall'istinto omicida, beh, avrei detto di no. Quanto alle sue posizioni politiche, se proprio dobbiamo parlarne, ultimamente si è avvicinato alla destra, così come in passato era stato vicino alla sinistra. Lo dico appunto perché ci troviamo di fronte a un soggetto influenzabile, una persona molto semplice. Ecco, forse sull'aggettivo semplice avrei qualche riserva, diciamo su quello influenzabile invece sono perfettamente d'accordo. Sul Giorno, l'intervista appunto al sindaco di Fermo su questa vicenda che ancora continua poi a suscitare polemiche, devo dire anche alcune di dubbio, molto dubbio gusto. In materia molto diversa, un'altra intervista, quella di Laura Boldrini, la presidente della Camera, al Corriere della Sera, che interviene sul femminicidio, insomma sugli atti di violenza commessi contro le donne. Uomini, siate femministi, unitevi a noi, isolate i violenti. Questo è il titolo dell'intervista realizzata da Aldo Cazzullo a Laura Boldrini, che dice, le chiede Cazzullo, le donne in questi anni hanno compiuto grandi passi avanti, non pensa? Sì, dice la Presidente, ma questi passi non sempre vengono riconosciuti, non viene riconosciuto alle donne ciò che è delle donne. Cosa direbbe agli uomini italiani? Direi, unitevi a noi, fate sentire la vostra voce. Le discriminazioni delle donne, i femminicidi, non sono solo un nostro problema, sono anche un vostro problema. E ai violenti dico, arrendetevi. Ha l'impressione, le chiedono, che anche nel lavoro resistono le discriminazioni? Non mi baso su impressioni, risponde la Presidente della Camera, mi baso sui dati. Solo il 47% delle italiane lavora, e al sud la percentuale diminuisce drasticamente. Quando la donna lavora, a parità di qualifica a volte, per non dire quasi sempre, guadagna di meno. Andiamo in senso contrario a quello che ci indicano le ricerche. Il Fondo Monetario ha condotto un'indagine su 2000 aziende europee, quando nel board, nel vertice, ci sono le donne, il fatturato aumenta da 8 a 13 punti. Questo è altro, naturalmente, vedo solo un breve stralcio dell'intervista a Laura Boldrini, la Presidente della Camera, che trovate oggi sul Corriere della Sera, intervista realizzata appunto da Aldo Cazzullo. Abbiamo meno di 2 minuti, Paolo Corleoni già vedo che incombe, anzi no, abbiamo 40 secondi, e allora ho solo il tempo di ricordarvi che oggi è anche una giornata importante per lo sport, lo avete sentito anche nel giornale radio, e la Gazzetta Sportiva appunto, tra Cristiano Ronaldo, CR7 come lo chiamano gli appassionati, e Pogba, questa sera la sfida per il titolo europeo, l'ultimo match del torneo, mette in vetrina 654 milioni in pezzi pregiati, e non c'è solo appunto il bianconero Pogba, ma anche João Mario, André Gomes, Matuidi, e questo, tutti i dettagli naturalmente, le valutazioni sono sulla Gazzetta Sportiva di oggi. È tutto per oggi, buona domenica da Mauro Meazza.